Gianni, in macchina? Eia, e beh Marco, dove sei? Io a casa, sto mangiando. E poi devo uscire a fare commissioni. Hai visto il calo di oggi? Porca miseria. Eia, ci sta bene, dai. Adesso andiamo a mettere il gas a Canica e poi devo andare in banca, dai. Mi devo fare un po' di commissioni. Anche noi qua, ho già, sto entrando poco perché sempre la mattina, al pomeriggio, a metà serata c'è sempre qualcosa da fare. Tra esami che sto facendo io, ricette, impegni attivi, un macello qua. Qua io ho un ascenso, ieri l'ho dato in vista e praticamente mi ha tolto due denti, perché quelli si muovevano e mi hanno fatto venire l'ascenso. Oh, non si potevano salvare? No, si muovevano, ballavano e niente. Adesso devo rimettermi. E poi sempre spese, spese, per carità. Marco, ma c'è stato il tutto. Vabbè che sono laterali, vede, ma anche per la masticazione. Eia, sì, infatti, se necessario si fa. Macello, macello. Io vabbè, con questo caldo ero a lingua fuori già. Sono in maglietta, se trovo dei bei pantaloncini che arrivano al ginocchio, mi metto anche quelli e quelle scarpette tipo barcami. Voglio rivestirmi estivo. Aspetta, si sta bene in casa 5, oggi si sta bene. Io va, sto andando lì a Canica, metto il gas e poi faccio tutte le compere che devo fare. Mi sa che mi lavo anche la macchina, già che ci sono, me la faccio lavare. Vedi tu già, perché comunque il cielo ogni tanto nuvole che passano, anche nere, capito? C'è il sole da una parte e dall'altra le nuvole nere. Già è vero, ma non posso dirmi la macchina come ti chiede di zingari, no? Ma poi sbaglio, quella è scura, vero? Quella è scura e si vede un bene. Nera è. Figurati, quella vabbè grigiacciaio lì, ancora migia, la polvere poco si vede, per fortuna, ma la tua è un macello. Ma io sono del parere che anche se la si vede è sempre sporca e quindi bisogna lavarla, anche quando non si vede. Marco, tu mi dirai sì ma non si nota molto, lo so, però questa qua quando è pulita fa una diversa figura. Sì, quelle scure migliorano tantissimo, appena sono sporche è terribile. E voi state entrando in questi giorni? Sì, Natalino non può entrare perché l'ha sabotato l'antenna e tutto quanto fondo scala lo spinto delle stazionarie. Ma come, di nuovo? Di nuovo, le ha messo qualche spillo nel cavo, qualche cosa del genere ha fatto. Non ci credo, guarda, non ci credo. Cioè, vuol finire in galera. Se lui vuol finire in galera, bisogna aiutarlo, dargli la spinta. Sei contento così, il tipo? Oh. Ma Natalino non lo vuole denunciare perché c'è che non gli fanno nulla intanto. Cosa gli fate? Lo denunziate da voi, non gli fate di nulla. Però quando lui accumula varie pene, varie tot anni di pena, basta che raggiunga il limite, adesso non so se sia 2 o 3 anni, perché ne avrà fatte anche altre, e poi scatta la galera. Ma per queste cose non li fanno di nulla, Marco, c'è ragione Natalino, non li fanno nulla, non li fanno nulla se fanno rapine, se fanno di chissi cose, dopo un po' di tempo li mandano fuori quando fanno gli scippi. Visto da me, uno che ha scippato l'avevano arrestato, dopo una settimana era fuori. Oh, che strano. Eppure io avevo capito, l'ultima volta che ho ascoltato avevo capito che gli aveva tolto quel pezzo di ferro che allontanava l'antenna dal palo. Cioè avevo capito che gli aveva ripristinata. Eia, stava facendo da bravo, ma era tutta un camuffo, capito? Ha fatto da bravo per qualche giorno e poi ieri è andato a modulare e mi ha scritto Natalino nel messaggio, non posso più modulare, mi ha sabotato l'antenna. E poi poi ci siamo sentiti vocalmente e mi ha detto che c'è qualche cosa nel capo, perché non è possibile, è successo stasera nel fondo scala ci sono. Sì, è possibile anche che abbia spillato il capo, o che abbia tirato il capo e ci sia la calza tolta dal DLM. Qualcosa deve aver fatto. Che bastardo. Sì, qualche cosa l'ha fatta. Natalino pensa che l'abbia staccato il capo. No, lì, ma è lì invivibile. Cioè, lì cosa fai allora? Davvero ci vuole una spedizione punitiva? Anche se bisogna fare i cacchi buffonature, così di una giussa, si sta cagando un campo generalmente. Sì, esatto, ma è tanto, guarda, le persone in genere capiscono solo il dolore, la violenza, e i giovani soprattutto. Gli devi lasciare il segno che se lo ricordi a vita, perché se no non lo capiscono. Capiscono solo i colpi le persone. Fa come quell'amico mio che gli hanno bruciato la macchina, ha capito, ha saputo chi era, è andato con la mazza da baseball, ha colto una giussa e l'ha lasciato morto in terra, e fa cadere tutta la bocca, i denti, tutto. Ma poi è finito in galera lui, per aggressione o come si dice? No, no, no, non l'hanno mai saputo chi è. Perché sai, fanno 2+2, cioè quello ha bruciato la macchina a quello, e quello si è vendicato, qui è lui. Ma quello lì non li conviene andare a fare denunce. Se no la passa brutta, peggio di quella che gli hanno fatto. Con Gesù si aveva incontrato, al Ponte Rosello mi l'hanno picchiato. Ehi, aspetta, c'è un NFM che sta arrivando un bel forte, a orecchio, dai, perché sono senza smitter qua. Comunque, vabbè, io sempre sono per la legalità, per seguire le leggi, seguire le prassi, però con certi non c'è nient'altro da fare, capiscono solo la violenza, hai ragione. Sì, quella lì è gente delinquente, non fa manco a parlarci, non ragionano, capito? Hanno sempre ragione loro, hanno i brigliotti. E tu sei dentro Sassari però, vero? Per il segnale tuo orecchio è buono. Sono al passaggio a livello di Canica. Ah, e a voglia. Dove la minchia Ulisse? Ehi, a dove c'è il tuo fidanzato? C'era. Regione Gesù Giuseppe Maria. Che gli si secchi là, poveraccio, manco baracchino là, non sa come sbattere la testa adesso, è che la sorella è severa, non vuole ammetterne. Ehi, stronza, perché poveraccio, almeno quello gli faceva compagnia, cosa fa di se poveraccio? Ma sai cos'è già? Che come gli hanno già fatto a Sorso, che gli avevano tirato giù l'antenna, lei teme quello, che gli facciano dispetti, che gli facciano danni all'antenna o simili, o che qualcuno possa stuzzicarlo, capito? E magari rientra un po' casino, che ne so, tutto è possibile. Cava. Vabbè. Cosa te devo dire, Marco? Lì perché vi avevano già messo l'antenna, io non mi ricordo che lui avesse antenna a Sorso. Allora, questo me l'ha detto lui, credo le prime volte che era andato a Sorso, adesso non so che anno potesse essere, aveva piazzato un'antenna CB, però non so se tirando con cavi o con corde o cosa gliel'avevano tirata giù. Capito, danneggiata tanto da cadere o comunque piegarsi pericolosamente. Ma va detto anche chi poteva essere in teoria, però non mi fido della parola sua, capito? Lui manderebbe in galera anche un innocente, lo sa che faceva i nomi di tutti, i numeri di telefoni di tutti, non è affidabile. Anche Luca Puggioni. Luca Puggioni, non so qual è il tuo numero di telefono. Capito, lo faccio spillare stanotte. Dava i numeri in tutti i sensi, capito? Quando vedevo una portante, diceva che ero io, che era quello di Latte Dolce, quell'altro del Monte, tutti i nomi, dava i numeri di telefono in tutti. Ehi, vabbè, non era giusto, poverino, non è giusto. ma anche lui non si meritava nulla già, perché come già ti avevo spiegato, Modigliani lo portava qua, là, sì, facevano gli scherzi bonari, gli regalavano il pene di pane, però poi lui dice, Modigliani, anche la moglie, c'è due stronzi, capito? Cioè, lo portavi per uscire da quella camera e lui ti parlava male alle spalle e così lo abbandonavano tutti. Sono arrivato al rifornitore di carica, come mi si? Bene, ripeto già, non ho smitter perché lo sai che da quando l'ho messo ho lasciato questo baracchino di Chichia? Così se mi dimentico l'antenna collegata in caso di temporale, anche se parte questo, così non devo stare ogni giorno attacca e stacca, capito? Ehi, adesso fra un po' come arriva il benzinaio, perché è alla benzina, come arriva me ne scendo un attimino, Marco? Ehi, già, intanto io dimmi, adesso mi organizzo che devo fare delle ricariche telefoniche, non so, devo andare a prendere qualcosa dallo spin. Mi sa che stacco qua, mi dispiace per Natalino, non mi cadono le braccia, credevo che avesse risolto, che gli avesse tolto quel ferro lì, quel roccio che gli aveva messo per distanziare il palo, però qualcosa deve aver fatto, se no non c'è motivo. E vabbè, quando si potrà si risolverà, però c'è questo scemo che continua a fare dispetti. Ma c'è anche la giustizia contro di lui, che ha chiamato i pompieri, gli hanno detto che non era che l'antenna non era pericolata e non ne toccavano, che lui aveva un po' di denunce da vigili urbani e che la luce disturbava e faceva, gli ha detto così, capito? Ma quello l'hanno detto i denuncianti, cioè il denunciante non sa che le sue missioni possono essere a posto, il denunciante dà per scontato che il baracchino disturbi a priori, invece sono impianti l'antenna inadeguati, così come anche i proprietari sono inadeguati alla tecnologia, capito? Ma noi possiamo avere le teorie nostre, loro hanno le loro, capito? Cioè, va bene, no, se non sono teorie, sono cose giuste, però loro partono dal fatto che se non c'è il baracchino non vengono disturbati, capito? Eia, quindi in teoria noi dovremmo rinunciare ai nostri diritti per i diritti degli altri, ma non esiste proprio. Io quella volta dicevo, chiamali, qualcuno diceva, chiama la postale, chiamali, dicevo, chiamali, così mi controllano le missioni e siamo a posto. C'ho anche quel filtro anti-TV, è quello che ti attenua di 60 decibel le spurie armoniche, con quello non c'è scampo, non passa nulla lì. E poi però si spera che controllino anche l'impianto, l'antenna del richiedente, perché è inutile che controllano solo me, devono verificare che quello non abbia anche un impianto tipo con preamplificatori cinesi, roba non a norma 6, capito? Così la multa si la beglia Edu. E che vuoi che ti dica? Comunque, in ogni caso, adesso non può modulare, perché non c'è antenna, non va bene l'antenna e quindi non può modulare. Io gli consiglierei di mettersi l'antenna nel frigorifero e modulare un mattino. Se lo sentiamo più basso, ma lo sentiamo. Guarda, basterebbe anche la veicolare sul balcone, la frusta nera. Tanto quella la puoi tarare con lo stup, che abbia un minimo di massa. Un pezzo di ferro, fuori di gabbo, comunque, sono senza parole. È bello che lui non li può fare la stessa cosa perché sul tetto non può salire, c'ha le chiavi quello lì, capito? Quindi non può fargli manco il dispetto di farlo a lui il cavo dell'antenna. È un casino qua, è un casino. Ma poi questo non aveva detto che voleva riaprire la botola e fargliela mettere sul tetto? Cioè questo cambia da oggi a domani. E ha detto così per non fargli nulla, capito? Davanti alla giustizia ha detto così e poi ha fatto quello che ha voluto. Boh, che schifo, guarda. Vabbè già, io vabbè adesso mi riposo un attimino perché siamo tutto il giorno avanti e indietro, poi questioni familiari, dai. E ti saluto già da adesso, ci sentiamo quando capita, dai, non do garanzie perché è un un periodo un po' così, dai. Ciao Gianni, buona serata, buon proseguimento e salutami Natalino anche, oppure lo chiamo io più tardi, dai. Ciao, ciao Gianni, ciao. Ciao Marco, ciao, buona serata, ci sentiamo. Attenzione, binario 10, cambio. C'è gente in FM qua, eh? Va. Sento qualcuno. Vabbè, sono tedeschi. In tedesca, insomma. Poco fa gli abbiamo detto due, non dico due parolate, due paroline, un po' così, no? In tedesco ci sono offesi. Gli italiani mangia spaghetti, te l'hai detto. Cosa hai detto? Cartoffa e telefunca Volkswagen. No, l'hai detto, tu visto il besofago, cioè praticamente che sei imbriagone, mi ha alcolizzato. Ah. Sei incazzato. Ah. Sempre così succede, che si incazzano con gli italiani. Avevano fatto anche la canzone, Italia in caput, non so se l'hai mai sentita, quella canzone, Italia in caput. No, no, non la conosco. Io conosco quattro parole, gliel'ho dette in tedesco. Ci sono stato anche in Germania qualche anno fa, molti anni fa, diciamo. Io vai. No, io conosco Telefunke, Volkswagen e cartoffe. Cartoffe ho preso le patate. Dubiti vuol dire tu sei. Besoffen vuol dire imbriagone. Besoffen. Prendi Google. E metti carbone e l'altra cos'era? Gatto e carbone. E ti dice la frase. Come si dice gatto e carbone in tedesco? Il gatto si dice cazzo, il gatto, carbone non lo so. Fatelo dire. Forse c'hai anche Alexa, tu? No, niente Alexa. Ma che con Google lo fa? Ma adesso c'è l'audio disattivato perché o è basso. Se no lo metti, però quando lo ascolti non fa ascoltare ad altri. Hai sentito? Sì, mi ricordo quando è arrivato mio cugino dalla Germania, quando ha visto il gatto, nonna a casa, dove diceva mia nonna. Perché c'è cugini emigrati là? No, praticamente mio zio si è sposato in Germania, però poi si era separato, però poi ne ha trovato un'altra compagna, lì aveva già due figli e venivano qui l'estate, no? Ah, ho capito. Però simpatico. Sì, sì. Quindi qualche parolaccia l'abbiamo imparata. Anzi, le prime cose che fai sono le parolacce. Vabbè, e queste cose qua sì, queste di due qua sì. Ma il tedesco è un po' difficile, bisogna andare a scuola per imparare. Oppure vai lì qualche mese, qui sei costretto a imparare. Io so di un amico che è andato in Austria a parlare il tedesco, ha dovuto andare a scuola per imparare, per andare a lavorare lì. Hai imparato prima? Sì, è dovuto andare a lezione proprio a scuola. Sì, non è bello, ma neanche piace a me il tedesco, eh. No, è una lingua troppo autoritaria, diciamo così. Poi vabbè, anche lì, anche loro hanno i dialetti, cambia da posto a posto, eh. Beh, come tutti i posti, dai. Sì, ma voglia. Mi sono fatto piazzare il, come si chiama, il misuratore di glicemia nel braccio. Ah, c'hai il sensore? Esatto, non mi veniva la parola, il sensore, sì. E roba miserabile, molte che voi, per 15 giorni, finora, sperando di stare a pungerti ogni volta. Lo leggi con il telefono, col cellulare? Ma c'è anche l'affarino suo, che è praticamente un lettore che tu l'appoggi, che si carica come cellulare, tu l'appoggi, senza app e te la legge lo stesso. Se tu non c'hai cellulare si sfascia, c'è quello lì, compreso, però l'altro compreso con la macchinetta. Praticamente adesso la sto provando, se vedo che perché il mio problema è quando faccio la doccia, bisogna mettersi ogni volta il cookie trasparente, ogni volta ti devi arrotolare per non bagnarlo. Ah, non sono impermeabili? Ma c'hanno praticamente un cerotto che si può staccare, capito? Sono adesivi, dai. Sì. Dopo 14 giorni la devi togliere, piano piano la togli, ma è facile anche da mettere tutto qua. Però l'unica cosa è che quando vado al mare mi hai detto di stare all'ombra, perché le letture se no non le fa giuste, se non stai all'ombra, se li fai prendere il sole, i cambiamenti di temperatura vi fanno sballare le letture. Anche se vai in montagna dove c'è la neve, scordati che ti viene anche prendere le misurazioni giuste. Ho capito, ascolta, ma te lo fornisce il servizio sanitario o lo devi pagare? No, a me mi ha dato questo diabetico, me l'hanno dato, non pago nulla. Beh, almeno quello, dai, qualcosa di buono c'è in Italia, dai. Sì, no, poi se mi garba, mi ha detto, non so se mi va bene, adesso ce l'ho in prova, se mi va bene dopo 15 giorni mi fa il nuovo piano terapeutico e al posto degli aghi e del materiale che mi danno, mi segnano quello, capito? Sì, no, anche ieri ho visto una ragazza, ce l'aveva nel braccio, ormai ne vedi già tanti in giro, eh. Lo so, ma è un segnale che tu sei diabetico, ma a me non mi piace mandare dalle 4:20. Mica colpa tua, purtroppo. Lo so, ma io sono un po' fatto così, sono un po' riservato, infatti metto le magliette con le maniche lunghe. Ma non fatti problemi, ripeto, ormai è come quello che, come si dice, c'ha problemi una gamba e usa la stampella, l'importante è che cammini. Sì, anche quello è usato, non per poco, per 3 mesi ce li avevo. Senti, non bisogna avere vergogna di queste cose, pazienza. Sembra un cerotto poi. Gianni, cambio. Ciao Fra. Sì, Gianni, mi ascolti, sì? Sì, che ti ascolto, Fra. Perché sono a una distanza dal centro, non so se ci arrivo lì, perché sono in mezzo ai palazzi. Arrivi anche qua. Arrivi bene. Briciola. No, sto scendo liscio, senza amplificatore, senza niente, dai. Sì, Santiago 9. Già, ti ho copiato. Sì, Santiago 9. Kappa, quindi va bene. La radio buona, sì. Sì. Va bene, dai. Ok, riprendete. Che è la cifra? Sono a Cappuccini, in mezzo ai palazzi lì. No, va benissimo qua. Tu conta che da lì trasmetteva Lupo Grigio, poverino, neanche lo sentivo da lì. Chi è che mi ascolta, il Cappuccini? Emanuele, a Londra, anche tu. Io sono nella chiesa vicino a Cappuccini, dai, in mezzo ai palazzetti qua, è una via. Sì, una bomba, sì, dai. Buonasera a tutti comunque, dai. Ciao Gianni, ciao Franco e ciao l'altro Franco. Ciao Emanuele. Ciao Emanuele. Arrivo, Emanuele, popo. Esce bene. Sì, sto utilizzando quel 48 modificato. Andale. Io così bene non ti avevo mai sentito, Fra, lo sai. Perfetto, magari è gatta, radio. E invece ho detto, visto che va bene, la lascio. Perché poi intenzionalmente ho detto, ma se va bene questa, lascio questa. No, va bene questa, c'è la radio chiara, forte, bella. Cosa c'è, il microfono amplificato o normale? No, è il microfono normale suo, è quel 48 manato, lo dico. Ho capito, ecco, ce l'ha all'interno. va bene anche l'eco perché non disturba, è un eco diciamo abbastanza buono, dai, è regolato bene. Ecco, se vuoi io lo posso studiare anche, capito? Ma se va bene così lo lascia così, dai. No, per me va bene, a me poi piace l'eco, quando è regolato così mi piace, se è troppo alto, quando è così va bene. No, va benissimo, non è invadente per niente. Purtroppo non si può originare questo che c'è sotto, va bene. Ma magari, come si dice, l'LC è manetta, escono forti uguali. Se invece aumenta l'eco magari va a strappare, capito? No, va benissimo così, va bene. Manuè. Ehi, Afra. Come la va? Bene, bene, un po' stanco, un po' stanco. Sono rientrato stamattina da lavoro, mi sono messo a pitturare in casa, non mi sono fermato un attimo, neanche dormito. Hai fatto la notte? Sì, ogni notte volta. Mamma mia, io meno male per adesso ho smesso, finché non arrivano altre imprese. Ma che ti volevo dire, ma con la magnetica la stai usando perché mi serviva per metterla nel camper, capito? A me stai dicendo, fra. Ehi, ho detto, c'è quella magnetica, perché mi serviva a metterla, perché con... E prenditela, non la stai usando. Via, ok, dai. Ehi, ehi. E perché non te la metti fissa nel camper? E dove la piazzi nel camper? È al lato, via. Andare, pensate che non entra acqua, che la isoli bene. Ciao, ciao, fra. Nuove coppere, avanti, Franco. Ciao Fra, alla prossima. Avanti che... Ma, Manuele. Ok, dai, ne approfitto per chiudere, che mi sento... devo fare alcune cose in casa. Ciao Franco, ciao Gianni. E ciao Franco California, dai, ce la riascoltiamo. Comunque già ci sentiamo in settimana e te la porti via, dai. Avrà già chiuso. Vabbè. Ciao Manuele, alle prossime, grazie per essere entrato a farci compagnia. Avanti Gianni. Hey, ciao Manuele, ciao, ci sentiamo, dai, grazie per il questo. Avanti Fra, stavamo dicendo. Ehi, boh, non mi ricordo. Io ho perso il filo. Magari se trovo la spagnoletta. Sì, io penso anche al gomitolo. Non si è più organizzato nulla, andare a mangiare pizza, roba così, era così bello quando si organizzava, l'essere, adesso d'estate è bello, fare una bella pizzata tutti insieme. Lo so, avevamo anche un gruppo dove ci ritrovavamo, no? Solo maschietti. Dopo il Covid, ha rovinato tutto, ormai non abbiamo fatto più niente. Paura di stare in mezzo alla gente? No, non lo so, ci siamo disabituati lì. Ho capito, avete perso proprio l'abitudine. Beh, a volte ti segnano certe cose, non ti rendi conto, però sotto sotto inconsciamente ti segnano. No, un po' ci hanno proprio rovinato. E anche fisicamente. C'è gente che le sono vedute a Parigi, di tutte di più. Io questa stanchezza che avevo ultimamente, lo stavo accusando il Covid, invece sono andato al dottore e mi ha detto, beva molta acqua, lei si sta disidratando, quanta acqua beve? E te un litro e mezzo, dovrebbe bere almeno 2,5 litri, sicuramente era disidratata per quello che sentiva debole. Ma no, ma anch'io sono così, anch'io ultimamente non ho più la grinta di prima. E poi la vitamina D sempre bassa, ce l'avevo a 16, adesso ce l'ho a 24 perché mi ha dato la cura, devo prendere queste boccette che sembra olio di ricino, grazie a dei kif. È una cosa oleosa, te lo metti in bocca e senti questa cosa oleosa è cattiva, mamma mia. Se voglio dirci lo brucio. E niente, prendi questa boccetta una volta al mese e l'ho fatto salire sino a 24, ma è sempre basso. Poi c'era sempre basso, deve andare a prendersi il sole, deve andare molto al sole. E poi il sole fa venire altre cose, tu vuoi la pelle, cose varie, mamma mia. No, non si ne capisce nulla. E sarà un integratore questo studio. Ma penso proprio di sì, che sia un integratore a base di vitamina D, oppure proprio vitamina D pura, non lo so. Ha detto che praticamente la vitamina D, anche se tu la prendi facendo la cura così la bibbi, poi la fai con le feci, se tu non prendi il sole, con le feci le spegni. Sì, anche il calcio credo che sia così, il calcio per fissarsi alle ossa ha bisogno del sole. Cose strane, stai al sole e ti dicono che la macchinetta non funziona, che sto sempre con la macchina. Oh, non conviene ammalarsi. No, conviene non andare dai dottori, perché il dottore ti pone mille cose in campo, non andrà mai bene niente. Ieri sono andato per un ascesso a questo dentista e praticamente voleva farmi addirittura mettermi in impianto perché quello che c'era era sballato, che c'era troppo tempo, questo e quell'altro. Lei mi faccia il preventivo, tu guardate così, io... Oh, yeah. È così. A volte non mi fido anche di certa gente, così come certi meccanici miei, a volte porti la macchina, e c'è da fare questo, la pompa, mi ha fatto vedere il gasolio qua tutto sporco di limatura, no? Di metallo. La porto un'altra parte, mi cambiano una pesiglia da 20 euro, la macchina è a posto. Io ho fatto lo stesso. Mi ha dato gli antibiotici da un'altra parte, grazie a Dio, l'ascesso sta passando. Cioè, ma poi i denti le ballano, ma qua ma là, sì, mi ha tirato due denti, ma li ha tirati perché stavano provocando l'ascesso. E cosa fai, ti rimetti poi? Sì. Appena guarisce tutto, l'osso, ti fai un impiantino? Sì, ma diciamo che già è in programma, però non lo faccio nel primo posto che sono andato, ma lo faccio nel secondo posto che è molto più onesto, capito? Però più in là, adesso tanto non si vedono, sono laterali, sono dei denti laterali che non si vedono nemmeno. Però ti servono per la masticazione? È quello infatti, per quello che li devo fare. C'è una che li metto un po' dei due denti, li esamina a fondo. Non lo so, l'impianto costicchia un po'. Se secondo dove vai per un dente spendi anche 2000 euro. Già lo so che è così, già lo so. Un amico ci ha fatto una dentiera normale, solo la parte di sopra ha pagato 700 euro. Non lo so, ce l'hanno i miei genitori, ma non mi ricordo quanto spendo ogni tanto per... perché a volte si rompono, vanno rifatte, boh. Comunque è un medicinale sempre. La dentista non fa entrarci, ti fanno pagare l'entrata, ma ci sono quelli più onesti e quelli meno onesti, come tutte le tue impuste. E che hai trovato onesto? Non sa mai. Guarda, io vado vicino a casa mia, faccio due portoni e vado lì, da Salis. Ma è che è quello dove faccio le analisi io, è anche dentista, se non sbaglio, no? Sì, è lui. Ah, ho capito. Un periodo era che si era candidato in politica, che com'è andato? Ma non penso che sia passato. Comunque a me non me lo fa lui, ma me lo c'ha una donna che è bravissima, molto brava. Eh sì, beh, una volta l'hai già testato. Sì, perché lui ha troppo impegno, c'ha anche l'ambulatorio e cose. E c'è questa ragazza di Porto Torres che è molto brava, ha la mano proprio delicata facendo le cose, non mi sono accorto di nulla. Bene, bene, dai. Sono farmacie, ma tutti ne approfittano perché sanno che ne hai bisogno. Infatti mi ha telefonato per dirmi di andare a discutere il preventivo che era pronto. Sono a Bardia, sono andato io. E così, tra i funerali, e dottori, e dentisti, lottai, cose varie, ti acchiappano per il collo. Idraulici. Beh, idraulico, no, se posso me la cavo io, dai. Vabbè, ma se c'hai prendere un intasamento dello scarico, roba del genere, cosa fai? Devi devi facciare tutto quanto, perché lo fai tu. E quelle cose lì ti pigliano un bel sciuto. Ah vabbè, io sono al primo piano, quindi a volte mi si può intasare, diciamo, lo scarico della lavandina, ma ne smonto tutto, pulisco tutti i pezzi, c'è una sonda, mi spazzano tutti bene i tubi, butto un po' di prodotto e ritornano nuovi nuovi. Io invece ho paura a smontare quell'affare, perché ogni volta che lo smonto poi perdono. No, se ci fai attenzione non perdono. Se vedi che vogliono cambiare le condizioni le cambi. Oppure a volte ci mette un po' un filo di teflon e quando stringe si forma una guarnizione, cioè vedi che perde. Ma no, non mi è mai successo, A me c'era le cavalubini. Un lavoro di pazienza, piano piano, si sta attento a non sbagliare le filettature, che ormai è tutto in plastica. In certo senso è meglio perché non si marciscono mai. Prima quelle cannette erano in lamierino o in ottone, ma dopo qualche anno si bucavano. Mamma ce li aveva in piombo, si saldavano i tubi, quando si bucavano si saldavano. L'impianto che ho tolto da qua io era in piombo, c'era la piletta, tutto in piombo. Quello lì quando si bucavano una saldatura ha fatto il gioco. No, ne ho tolto tutto, ho eliminato tutto, ho messo tutto in PVC, cos'è, in plastica, dai. Sì, vabbè, poi quando sono molto su io ogni tanto li butto Mister Muscolo, un po' di acqua calda e lo staso così, però se quando ce la fai, poi quando si blocca del tutto, come ha fatto una volta, sono dovuti venire con la pompa, prima è venuto uno e non ce l'ha fatta, ho dovuto pagare 90 euro lo stesso, ho detto che si aumentava l'atmosfera e spaccava i tubi, è venuto un amico mio, ha aumentato un po' l'atmosfera e pum, era stasato. Prima gli ha messo questo prodotto che si chiama Ferrari, che vendevano, adesso non l'ho più trovato, da, come si chiama, dalla Sardina. Aspetta un attimo il telefono. Diciamo l'involucro, poi all'interno è rotondo ma non si vede, anche il tappo in acciaio, una retina in acciaio cromata, quadrata però. No, questo è tutto rotondo, questo ce l'aveva già fatto la dimora negli anni che furono 80. Forse è il modello prima quello lì. Prima pure sì, ma lui ce l'aveva comprato quegli anni lì, capito? Anche questo degli anni 80, magari quello è i primi 80, questo è fine 80, adesso non ti viene una piaceria, comunque sono microfoni fortissimi comunque, ottimi. Ma diciamo che sono senza fronzole mie, e poi ti durano una vita. Sì, ma c'è bisogno di quanti anni c'ho questo qua, che sta sempre andando che è una bomba. Ma io qua mi ho cambiato, ma neanche tante volte la batteria, perché ti dura una vita anche la batteria, non consuma nulla. Da voi poi sta sempre funzionando. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Io ti ho dato retta, mi sto rilassando. Ti stai rilassando? Sì. Tu cosa hai detto l'altro giorno su TikTok? lasciatevi anche voi. Ah, hai preso io? Allora io vedo tutti, io sgamo tutto. Dai te, brutto spione. Che bella rietta che c'è, ho aperto la finestra. Vabbè, io giro molto, capito, quindi... Ho visto anche l'isola che non c'è, ho visto. Dai te, pure quello. Anche quello. Vuoi seguire? Seguimi. Sì, anche quello ho visto. Ti ha detto posso seguire, detto seguimi. Aiuta, se sei buona. Oh, io non mi sto seguendo. No, tu stai dicendo quello su TikTok che ho scritto io. Sì, ho capito, ho fatto la battuta, non mi sto seguendo proprio, non ci capisco niente di quello che state dicendo, perché voi sapete di quello che state parlando, io no. Cappa. E così allora già, oggi gelato niente. No, io gelato non ne sto più mangiando, io mi sono messo la macchinetta, lo sai. Per fare i gelati. Cosa per fare i gelati? Ho misurato la glicemia nel braccio. Ah, e no, se non c'è parlato di gelati, quindi siccome tu sei molto goloso dei gelati. Lo sai cos'è? L'unica cosa è che sei spiato, perché è collegata col diabetologo e lui poi parla al computer e vede tutte le glicemie di durante la giornata, durante la settimana, durante l'anno, se le può controllare tutte, cioè tutte quelle che tu ti misuri le vede anche lui. Faccio bene che io non me ne attacco i ciaggigi. E bene da fare il Ramonello. Ma io ce l'ho in prova a Torino, non lo so se l'accetto, perché il fatto di fare la doccia ogni volta ti devi mettere il nylon attorno, perché se si bagna si rovina. A me mi hanno detto che puoi fare la doccia, che ce n'è che il marito viene in porte, dice puoi fare la doccia, non si stacca, non si bagna, cioè non fa niente. A me mi ha detto che devi mettere una pellicola trasparente, chi mi ha spiegato come si usa? No. A me c'è cosa attaccata, no, che fissa, no, con la colla, no. Oh, già. Sì, attacca la Tyson a vedere come ce l'ha, così la lascia a lui e gli arrivano i parametri di Tyson. Sì, a parte gli scherzini, la vomiti, che mi sono anche preoccupato. Ha vomitato due o tre volte, tutta la pasta, la carne, non l'ha digerita invece. Ed era quella di pranzo, perché a cena non ne ha mangiato, gli ho messo la roba e non ha mangiato invece perché stava male. Ovvio, si è ripreso adesso? Sì, adesso sì. Ho pensato alla gastroenterite, perché è morto da poco il cane di mio comare di gastroenterite. Vomitava, diarrea. Stavo portato al veterinario, l'hanno ricoverato ed è morto. Ok, mi dire. E il mio... questi giorni che è stato ricoverato gli hanno rovinato il carattere, adesso è diffidente, non mangia più, non prende medicine, è un casino. E si è ripreso? Non vuole più giocare, niente, non fa più nulla, guarda, è sempre su, ce ne va nel totem che c'è in alto, scende qualche volta per mangiare, ma è diffidente adesso perché tu gli metti le medicine, capito? Adesso non mangia né uno né l'altro. Ma le medicine lo sai cosa devi fare, devi metterne appena da mangiare, la medicina la metti in mezzo, quando si consuma quel poco tempo gli aggiungi l'altro. Ma ormai è un furbacchione, cioè ormai ha capito me. Se te la sgama subito, come l'odora. Che cosa aveva il tuo? È andato in blocco renale, capito? Quindi gli hanno fatto l'intervento, gli hanno rimosso i calcoli. E quindi adesso era convalescente, quindi antibiotici, cose così, antinfiammatori. Sono dovuto addirittura fare l'intervento. Non me l'hai portato alla clinica di Via Alghero, mi hai detto. C'è qualcuno in FM? Sì, in Via Alghero. Ho capito. Vabbè. Quando c'è animali è così. Adina, poverina, era un affezionata quel cane. Ti è venuta la gastroenterite, anche a te ti è venuta una volta, adesso che li poverini anche odorando le feci di qualche cane che è malato. Non lo so, ma non c'è niente, non c'è un vaccino, non c'è nulla, no? Sì, io gli ho fatto la cura, io, come io, visto che era così, l'ho portato subito al veterinario, gli ho fatto la cura e gli è passato su. Dai, avanti, Tony. Cappa, sono qua. Tu ne hai animali? Cappa, due cucciolotti. Come sono? Metti in croce, cosa sono? Sì, mi dice uno in croce con Jack Russell e l'altro con qua sotto. Il mio è un incrocio tra Viale Dante e Via Duca degli Abruzzi. Un incidente? No, sto scherzando, è un gatto di quelli arancioni, molto... Ti gratti, però è molto peloso. No, grazie a Dio, mi sono tutto sotto controllo, tranquilli, la verità, c'è il vaccino, c'è la microchip, c'è tutto quanto, quindi io ormai sono affezionato, ce l'ho trovato da 2 mesi, adesso hanno più di 3 anni, però mi sono pentito, era meglio non la prendevo, sono più libero, invece così sono troppo impregnato. E anche io ero contrario, ma purtroppo ero minoranza qua a casa, quindi ma la maggioranza ha vinto. Purtroppo è così, dopo ti affezioni una parola, è vero già. Beh, io l'ho portato l'altro giorno a fare il vaccino, però gli ho fatto quello biennale, così almeno il prossimo anno me ne devo fare. Sì, ma io alla mia devo anche 5 euro, dico, tu vai, cercati il maschietto. Anche un po' mi turgo, come si chiama, Snoopy, che è un Zingarossi originale, proprio puro, e viene a rompere le palle alla mia, l'ha messo già in cita, non l'ho fatto, però non faccio più uscire, che meno male sono andati morti, ci avrei avuto 4 cani, va. No, il mio è, come dici, è sterilizzato, infatti è per quello che poi gli vengono problemi nei reni, capito? Capito, infatti quando lo vedo quel cane con me, con adulto, sparisce. Rodolfo Valentino. Allora, per carità, Puzzinuccio, già se la butti luci, quello che è mio. Sempre Zecchini Andrè, no? Allora, come Gianni è? E come Gianni, no? E voi che c'è con tutto all'asino? Non è dire tu adesso, ma... Tu vuoi che ti sei goduto all'aino? Noi non faccio queste cose, già lo sai, sono una persona abbastanza parsimoniosa. Sto cercando donna. No, non le scrivo. Io non sono iscritto su Badu come sei iscritto tu. Allora, cosa non sei iscritto? Se hai visto vuol dire che ci sei. Cosa ti stavo dicendo? Che non me la ricordo più. Poi, che non so se l'hai visto quel tipo che, quel negro che sta cercando donna che lo mantenga, che ha messo il cartello, cerco donna bianca che mi mantenga, che sia ricca. No, non ho visto quel cartello lì. E un altro ha scritto, cerco donna nera ricca per mantenermi, un altro cerco qualcuno che mi metta, che mi faccia il bonifico perché fra poco mi tolgo la cittadinanza e non so come campare. Le battute le riscrivo, per carità. Anche di Villiga. A travagliata. Capito, mi azzappandani. La pagazione questa è. Io proprio un FM sentivo. Minchia. Sì, io sono contrario al reddito. Oppure glielo dai, però non daglielo gratis. C'è tanta cosa da fare nei comuni, nelle città. Cioè, mettila a fare qualcosa, deve diventare un giardino questa città. Gatta, o lavori una città, ti rifiuti la prima volta, non ce n'è più, finito, via. E allora si andrà a travagliare, così bisogna fare. Cioè, praticamente io ho travagliato la vita, sono pensionato, è chi gratis, se sei iniziato in casa, se sei messo in dato, è meglio di no, sbagliato. C'è gente che non li prende lavorando quei soldi, mi. Senza andare lontano. Beh, io prendevo molto di più, dai. No, io ti parlo di gente, ragazze che fanno OS e cose varie, pagano 700-800 euro al mese, e quelli lo prendono senza fare niente. Ma sbagliate, infatti. Io sono contrario. Proprio niente, non ho dato nulla ai clienti. Ma zappa, dai pietina. Poi, conosco parecchie persone, lui e lei, capito? Si trova a casa in affitto, tutti e due il rito. La mazza gliene varia. Il mondo dei furbi, tu ne hai risposati qua, e gente invece è furba, separati, hanno fatto la separazione, tutti e due si ribeccano, e va che siamo noi. Allora, Gianni, chiedilo anche tu, a te ti spingerà a drogarlo. Io non ho bisogno di chiedere, a me mi danno senza chiedere. Lo so, tu basta che dai il busegnao. È da molto che lo sentivo busegnao. Ogni tanto ci vuole. Oh, yeah. Gianni, ci voleva, vero? Cosa? Scusa, stavo rispondendo alla mica al telefono, dimmi. Ho detto, basta con il busegnao. Oh, io non ho capito, non riesco a capirti, boh. abbassare, non aumentare. L'ho abbassato. Ho detto basta andare in un segnale. Fracco di giorno. Tipo l'anfra, dai. Ah, io già, ma domani non lo sai. Quindi anche Franco ha detto che era da molto che stesso a sentirlo, questa musegnava. Eh sì, non mi ricordo neanche chi lo usava questa frase, però mi è venuta in mente. Non mi dire Giro Drago, Non mi dire? Giro Drago. No, non mi ricordo, musegnava, chi lo usava questa frase qua, ma erano secoli che non la sentivo. Lei ha detto che molto anch'io l'ho detto, sul balcone. No, io non ho mai sentito una parola del genere, forse perché ho frequentato diversi ambienti. E finimentino vai! Ma è un modo di dire, per non dire una parolaccia si dice buzzegnavo, dai. Che è più educato, dai, già. Chissà quante volte tu l'hai usato, ma... No, non la conoscevo come parola, sinceramente, l'ho sentito tante, ma questa non la conoscevo. Franco, dovevi presentargliela. Va bene, l'abbiamo presentata oggi, dai. Scherzo, non la va niente, già. C'è sempre da imparare nella vita, vedi? Cazzo, mi smaliziate, tu. C'è sempre da imparare nella vita, già. Io che sono in giro, poi mi smaliziate. Ma che sei stato proprio tu a smaliziarmi, ero così educato, che è vergognoso. E curato. Questo è un FM, sono. Sì. Che poi non si capisce di dove sono. Agiti su, ero io di In genere in Germania mi usano le FM. Mi sembra anche una femmina forse. Allora se c'è la femmina bisogna andarci. Ma io che andiamo, diciamo, Telefunke, Volkswagen e Kartoffel. Ma io proviamo a vedere. Guten Abend, stava salutando però. Ma tu che già ti ha detto Scheiser? No, non ha detto Scheiser. L'ho sentito io. Ma davvero? E io. E poi ho detto te le fughe di faccia, grazie tu di gatto. Cosa vuol dire Scheiser? Scheiser vuol dire cacca. Poi anche l'altro vuol dire. Oh, poi Ashlock vuol dire vaffa. Franco, le prime parolacce, Sammy. Le prime cose che fai sono le parolacce. E da lì si inizia, mio, già. Da lì si inizia. Poi invece, fiche si dice bumps. La tedesca è già fatta. Poi mangiare si dice essen, bere si dice drink. E tu, cicci. E quindi l'importante è che non muoia di fame, eh? Dubiste besoffen. Però Mimi, dubiste besoffen vuol dire che sei embriagone, alcolizzato, mi, avanti. Totalino. Natali. Non posso, dai, che mi si crepa tutto qua. Qui arrivi bene, eh? E questo è il bacino di radio. Ciao Natali. Gianni, il primo. Che tu Gianni si puccia sempre. Ciao Natali. Ci non mi dare un tempo di abbassare il microfono. E beh Natali, è messo a posto. No, mi si crepa tutto qua, dai. Perché si crepa tutto? Dove c'è? Tutto incasinato. Ma è già stata un'aria a mille. Ti hanno sabotato la mente. Ma se l'ha drizzata e lui mi sta dritta l'antenna mia. Ma va, ma adesso azionare sul tuo scalo. Ma hanno messo qualche ago nel capo, oppure gli hanno staccato il capo direttamente. No, non sarebbe riuscito a insegnare se staccavo il capo già. Il segnale arriva, non è quello suo, ma arriva. Guarda, 9.20, fate anche di più. Ma non è che ha qualche problema l'antenna che non te l'hanno toccata? E ce l'ha controllata con lo strumento. Ed è a posto. Secondo lui il cavo è a posto. Ma spiegami una cosa. Uno, noi non io stazionario. Già va bene. Il mio neanche si muove. Poi quell'antenna lì non è da nemmeno uno di stazionario, non si può venire in mano. però c'è una larghezza di banda enorme. Ossia, dimmi. Io quando abbasso il watt, il baracchino, lo smette il mio e impazzisce. Quando abbassi il watt, quando esci di un segnale di 5 è modulato 9 più 30. Capa. Prova. Sì. Allora, 1, 2, 3, prova di modulazione, dimmi come lo smitter. Ma così migliora anche la radio. Devi anche abbassare. È un 4, Emmy. Mettilo a 3. No, a 2. No, va benissimo. Me lo smitto, è impazzito, sì. Ehi, 3 da 5 va a 9.30, buh. E capito, a me ne sai. A volte sbatte anche a fondo scala. Gianni, cosa può essere? Picchi di modulazione. Come so, ma sei qua, già di modulazione. Ma io mai nel suo baracchino mi sa cosa del genere. Chissà cosa gli hanno fatto, è bello, a me piace molto uscire così, piacerebbe molto. Tu c'hai il Galaxy stesso? Tipo un Galaxy, è un samurai. Ah, è giusto, sì, ho capito. Quindi la potenza qui la puoi passare lo stesso? Ma da dentro. Ah, no, da fuori. No, negativo, solo dal trimmer interno. Ho capito, no, io c'ho il potenziometro fuori. Ah, gliel'hai messo tu? No, R3 Power, cioè questo qua è dalla casa proprio. No, allucinante proprio i picchi, sono enormi proprio, enormi, una cosa mostruosa. No, io l'ho abbassato a 4 watt, dai.